Amici e compagni di Radio Bombat, benvenuti a Notiziario Anticlericale. Ricordiamo il sito giordanobrunomi.wordpress.com. Per il calendario anticlericale 2024, info@siciliolibertaria.it. Iniziamo come al solito dai misfatti clericali. Per esempio, a Lainate, provincia di Milano, cosa è successo? Vergogna, da 4 anni aspettiamo la sala del commiato. Le forze filoclericali boicottano le sale del commiato e cercano di difendere in ogni maniera i funerali religiosi. In Vaticano, Vaticano affarista, chiesti ben 7 anni per il cardinal Becciu per reati finanziari. Siamo ancora, diciamo, in una fase del processo, non dico iniziale, ma intermedia. Poi dal settimanale giallo del 2 agosto 2023, clamoroso, Elisa Claps, scomparsa a 18 anni nel 1993, fu ritrovata morta soltanto molti anni dopo nel soffitto della chiesa a Potenza. L'edificio chiuso dopo il ritrovamento sarà presto riaperto. La famiglia protesta. E ricordiamo la frase della famiglia, fu tutta una messa in scena. Dal Corriere della Sera del 26 luglio 2023 si parla dei roghi di libri. Storia, la vicenda del fuoco appiccato a copie del Corano in Svezia è l'ultimo esempio di una pratica molto antica, cioè c'è anche un'immagine del rogo di libri da parte dei clericali. Fiamme contro il sapere. Si cita anche Giordano Bruno, si citano i roghi dei libri ebraici avvenuti in Italia nel 1500, tutte le censure, eccetera, eccetera. Crimini clericali contro i bambini. Il killer della piccola Gretchen era il prete che la seppellì. Uccise nel 1975 una bambina di 8 anni, ora l'uomo ha confessato. Corriere della Sera del 27 luglio 2023. Siamo negli Stati Uniti. Il caso Emanuele Orlandi, sempre presente, Vaticano assassino, dal Giorno, quotidiano nazionale del 20 luglio. Caso Orlandi, quel mostro. Quel nastro, pardon, col boss della Magliana, il blogger, un ricatto al Vaticano. Alessandro Ambrosini trovò la registrazione con De Pedis. Lui ebbe un ruolo chiave nel rapimento, ma per conto di chi? E qui riafferma che fu una cosa molto vicina al Papa. Il Papa fu avvertito subito: come mai tutta questa attenzione per questa ragazzina? E si parla anche male dei cappellani. Passiamo ora a VL Editore, che ha edito un libro che può essere molto interessante, L'infanzia violata nel Medioevo, genere e pedocriminalità a Bologna nel secolo XIV-XV, e quindi dovrebbero esserci molti casi di preti pedofili. La strage di Bologna, che sarà tra pochi giorni l'anniversario. Sulla Bologna Cronaca, pagina 4 della Repubblica, il mandante fu il clerico fascista Licio Gelli, quando alla verità servono 43 anni. Si parla anche di Ortolani, che era un esponente introdottissimo in Vaticano. La P2 era legata ovviamente al Vaticano. Cronaca Vera del 25 luglio. Verrà rispedito in Argentina Don Reverberi, prete degli Aguzzini. Ottimo articoletto che con foto dei Desaparecidos, in cui si denunciano le complicità di questo prete con i clerico-fascisti argentini, di cui rimangono molte foto col Papa. Maternità surrogata, reato universale. Primo sì con l'aiuto del Terzo Polo, 27 luglio 2023. È una legge chiaramente clerico-fascistoide. Passiamo alle notizie di sapore anticlericale. A Saronno Varese scalano la prepositurale, cioè la facciata della chiesa. Le chiese come palestre di arrampicata. È un'idea per il riutilizzo delle chiese abbandonate. Dal Vernacoliere di luglio. ricordiamo alcune vignette interessanti, sempre inerenti alla morte di Berlusconi. Berlusconi che fa le corna a Dio, poi un'altra, Berlusconi sempre con Dio, pare che arrivati in paradiso si possa esprimere un desiderio, vorrei una donna, ma non ne avete avuto abbastanza in vita, intendo senza pagare. E poi un'altra, sempre Berlusconi arriva da San Pietro, qua o te qui e Bermi Pietro sa ti devo di. Stavolta la prescrizione non ha funzionato. Poi uno spettacolo teatrale di sapore anticlericale, dissacrante, è quello su Maria Maddalena di Paola Giacometti, una rappresentazione che mette in dubbio le fantasie evangeliche. Questa Maria Maddalena, al seguito del gruppo degli Apostoli, era una peccatrice, forse pentita, prostituta, eccetera, eccetera. Disgrazie clericali. Ricordiamo in questi giorni la terribile disgrazia accaduta in Valle Camonica al gruppo degli scout. Dopo che, un gruppo di oratoriani è stato colpito dal fulmine e sul lago di Como, adesso il vento fa crollare un albero sulla testa di questa povera ragazza. Anche questa settimana le più terribili disgrazie hanno colpito il mondo clericale. Scautista schiacciata da un abete mentre dormiva, ferite le 8 compagne che erano con lei, psicologi in campo, eccetera, eccetera. San Giorgio, patrono degli scout, ha perso un'altra occasione per intervenire a proteggere i suoi presunti adepti. Sconforto e tristezza per la tragedia in cui Chiara ha perso la vita, dicono i dirigenti nazionali degli scout. Per concludere, leggiamo qualche breve passo dall'elenco fatto con pazienza, tratto dal dizionario storico Bompiani, dei mercenari che hanno combattuto al servizio della Chiesa. Altro che pacifismo cristiano. Per secoli, numerosi mercenari ben pagati hanno combattuto nelle file del papato, no? Dell'esercito del papa, generali e ammiragli. Quindi sono in totale, ne ho raccolti 91. Acuto Giovanni, 1320-1394. Alberico da Barbiano, 1340-1409. Anichino di Bongardo, Attendolo Micheletto 1390-1451, Baglioni Giampaolo 1470-1520, Taddeo Barberini 1603-1647, Annibale II Bentivoglio 1469-1540, Bichi Giovanni 1613-1678, Giacomo Boncompagni 1548-1612, Borghese Marcantonio II 1401-1601-1658, Borgia Pedro No Lovis 1430-1458. Qui altro che pacifismo evangelico, ci furono un'infinità, e quindi ho contati, come dicevo, 91, di mercenari che hanno combattuto, che hanno ucciso, che hanno assassinato, che hanno ferito, saccheggiato città, distrutto beni privati al servizio della Chiesa. Benissimo, arrivederci alla prossima puntata del notiziario anticlericale.